quando c'è tanta gente. E la musica ci fa star bene. È una libidine, è una rivoluzione. Quando ci si può parlare con una canzone. Che bello è quando lo stadio è pieno e la musica riempie il cielo. È una libidine, è una rivoluzione. Voglio ringraziare tutti quelli che lavorano a questo tour e che sono molto importanti, perché questo è uno spettacolo che per riuscire ha bisogno del lavoro di più di 140 persone, e per me sono davvero molto importanti tutti quanti. Li voglio ringraziare in un abbraccio unico, perché non posso dire 140 nomi anche se lo meriterebbero. Quindi grazie, grazie a tutti quelli che lavorano davanti a me, alle luci, alle proiezioni. Oh yeah, ai profumi e poi al suono, quelli che mi fanno sentire. E grazie a questa band! Yeah! Everybody! E grazie a voi! Grazie davvero! Buona fortuna a tutti di cuore! Buon anno a tutti davvero! Buon Natale a tutti ragazzi! Vi auguro il meglio! Davvero il meglio, grazie, perché siete davvero della bella gente, grazie di cuore. E quando tramonterà il sole sopra la città, una